Sì, spinge bene perché c'è un abbinamento fatto, chiaramente tecnicamente fatto bene da chi lo sa fare, e poi l'alimentatore, cioè il lineare è alimentato dall'interno da 12,8 volts della radio, 13 sul picco, cavi non c'è niente, i connettori sono diretti, capito, diretto, antenna, lineare, tutto diretto, quindi c'è un abbinamento fantastico. E infatti me l'ho messo all'avanti, mi sono tolto l'FT757 che non lo uso, l'ho messo dentro l'armadio e ci ho messo il gas a fianco al 920, lo uso molto molto spesso, lo sto usando più quello adesso che il tappa, vai doppio. Ehi, cava, dai, già va bene, anda bene, anche il gin esce molto bene, io forse è una delle poche volte che l'ho sentito veramente bene in radio. Eugenio gli avevo fatto prendere 140, poi il microfono gli ho dato uno dei miei, nuovi, sta sempre usando quello, non tocca niente, e va bene, qua il segnale 9+, radio Super 5. Marco non riprende, Natalino sta facendo cosa, riprende Eugenio. Sì, io non mi sto guardando con la tua, non è il mio lavoro, quella era mia, Milo, è che per entrata Massimiliano, la Massimiliano l'ho data io, quindi ci avevi visto che condizioni è come questa, nuova, questa era di Valerio, l'ho data io e dopo un po' di anni me l'ha restituita la più nuova di prima, e la radio si trattano, si devono usare bene, quella era mia, l'ho data a Massimo l'ha data a te, ma è una signora radio, funziona veramente molto bene, molto, non è mai stata toccata, è bella allineata, insomma, vabbè. Il 60 mi sembra che quello che ho dato a Eugenio Gianni, perché non me lo ritrovo il tuo, l'avevo messo un segno sotto, sicuramente è quello che mi avevi venduto tu, quello che mi avevi dato tu, il 60, quindi è nuovo. Sciappa, ma già esce bene, l'ha regolato bene perché va bene. Guarda se c'è sotto un puntino qualcosa, avevo messo un puntino con un pennello indelebile, proprio piccolo. Sì, quello, vabbè, quelli anche miei, a volte ne esco, a volte rimango, a volte ne esco. No, allora, non lo so chi lo va. Non lo so, forse, ma sicuramente l'ho fatta qualcuno con qualche radio. Perché c'era un puntino che avevo messo col pennello indelebile, capito? Va bene. Si è acceso adesso la ventola del 240, perfetto, a posto, vai già. Cappa. Sì, va bene. Marco, e beh, risolto hai alzato la DC. No, già, non è per adesso, è troppo caldo, sono in croce qua. C'ho la ventola soffitto, ma sono sul divano, sdraiato, non aggiungo manco di parlare. Poi io me ne sono andato a farmi il giro, sono andato a Porto Torres, in Plattamona, abbiamo fatto il giro della costa, insomma, a prendere un po' d'aria, con l'aria condizionata, attaccata e via. Guarda, si può uscire la notte quando rinfresca, tipo ieri. Ieri c'era un bel fresco, forse anche l'altro ieri notte, però di notte un po', non alle 7, alle 10, roba del genere. Ma di giorno no, mi dispiace. Va bene, dai, riprendete che non è giugana. Vai Eugenio. Cosa? Deve rimanere così in avanti. Quando c'hai la radio di fronte a te deve rimanere in avanti, perché quell'interruttore è quello che aumenta il circuito di preamplificazione. Adesso io sto andando col 430, col DS430S, la modulazione è più forte rispetto a quella del 140. Sì. Non è maledetta anche questa, il fino ce l'avrei, meno della mano. 430, poi vabbè, c'è una ricezione molto diversa, più corposa, va bene, ogni tanto li faccio girare io. Avanti Gianni. E allora che te la vendi questa 430, boh? Non penso proprio. 440 mi sono venduto, ma 430 non si tocca. Non ce n'è per nessuno, 430. Come dice il trasmettitore, ancora dei K è uno dei migliori. Constatato, è visto, provato, è tutte cosce, non ha niente a che fare col 440, il 440 è più completo, ma completa con il rotatore, memorie e tutto, però come dice il trasmettitore 4.30 non c'è anche nessuno. Ma perché tu c'hai un 8.440 adesso? Non è, l'ho venduto. Ah, no, pensavo che ce l'avessi adesso. No, no, no, avevo il 4.30, 4.40, 140, capito? E il 4.40 l'ho fatto fuori. Guardate, mi sono tenuto il 4.30, no? Ma tanto meglio quello di Porto Torres. E io gli sono dovuto accendere a Porto Torres a mettere il gas, perché quello di carica sta facendo l'impianto nuovo e quindi non aveva, è stato costretto a uscire. Andare, ma già sei stato bene, perché con l'aria condizionata già va bene. Io non vedo, se l'aria condizionata non si può uscire. Io ce l'avevo prima a casa, però era io che ci andavo a farci un giro, così metto il gas e siamo andati giù a Porto Torres a metto. Hai fatto bene, hai fatto bene, vai genio. Io ce l'ho anche da poco, a San Gavino sono sceso per dire. E l'economia la faccio girare, siamo andati in un paio di locali a bere, a fare, cioè, ma ci scendevo spesso prima a Porto Torres, quasi ogni sabato, quando a Valghero andava a Porto Torres. Non lo sapevo io. Ma con la processione in mare. Hai visto? È una bella cosa. Una bella cosa avete fatto. E vabbè, portuali, adesso saranno chi sono i portuali veri e propri, non ce ne sono più. Cosa sono gli ormeggiatori, cosa sei, boh, non lo so. E questo è l'unico portuale che c'era. Ma tu non hai detto degli anziani, hai detto l'unico portuale, quindi io ho pensato che adesso non si chiamassero più portuali, avessero un altro nome. Vabbè, chi per salutare? Avanti, giù. Ciao Gianni. Non puoi mi sembrare che sei Claudio. Adesso vi ho sentito e vi ho voluto salutare. Vi lascio e vado a cenare. Claudio, se ci sei, ma penso di sì. Forse ci sarà in ascolto anche Marco, non lo so. Comunque, vai Claudio. Ciao Giulio, buonasera, c'è una portante però. Ma perché sto facendo uno schifo? Come mai? C'è una portante, non lo so. Non so se sono Giulio o qualcuno che vuole entrare, avanti. Ciao Giulio, buonasera, dai. No, non sono io, non pensate mai. No, già, dobbiamo pensare che se sei buono da portante a Giulio. Ha parlato Giulio e sentivo un fischio. Ciao a tutti, vado a cenare, chiudo, vai, vai, oggi. Beh, c'è la portante quando parla Giulio. Ciao Giulio. Ciao Giulio, buona carica. Io non riesco a capire, cazzo, ma se si può fare una cosa del genere, non entra a salutare, a fare due chiacchiere, ma è importante, cazzo. Barimo nell'anno 80, Barimo. È bello ricordare che tempi. Sono sempre conservatori. Cioè, sembriamo negli anni 80, veramente, una cosa che non va bene neanche a dire, boh, non lo so, una cosa serve. E com'è questa portante? Cosa giù? Ho detto, da quant'è questa portante? Leggermente più alta di te, sul 9-10 mi arriva qua e tu sai dove sono, fuori Sassari, boh, tu non so quanto arrivi a Gianni. Sto giù. Dimmi, oggi. Buonasera, ma perché mi stai arrivando così basso? Cosa è successo? Perché basso il radio? Perché sto usando una radiolina da un watt di potenza e il microfono normalissimo. Ed è per quello, Eugenio, niente di particolare. Ma perché non sono arrivato a 5 watt? Va bene così già, mi sento lo stesso, dunque mi va bene così. Non... Vabbè dai, non si possa spiegare adesso. No, arriva 9 qua e esce 9 arriva, però la portante è 9.10. Vabbè, pazienza, dai, vuol dire va bene lo stesso, non c'è problema. Però le faccio a chi mette la portante, cosa vuoi che ti dica? Non è certamente una buona azione, però la pensa così, lasciamolo fare, che problemi ci sono. Vabbè, adesso non sta mettendo, se vuoi rimanere, intanto fra un po' io vado a preparare la cena. Avanti, Eugenio. No, scusa Eugenio. No, devo scendere, devo andare a mangiare, dunque, devo fare la cena adesso a quest'ora. Mi hanno già chiamato proprio nel momento che ho fatto break. Va bene, dai, grazie allo stesso per l'invito, comunque ci sentiamo. Ciao Claudio, ciao Gianni, ciao Eugenio o Marco se si è d'accordo. E c'era la portante di nuovo. Sì, sì. Ciao Giulio, dai un abbraccio, buona serata, buon tutto, buona cena, saluti a casa, vai dopo. E allora, ciao Giulio, dai, buona carica e buona continuazione di serata. Avanti Marco. Comunque sempre miserabile, miserabile rimane, morirà miserabile. Ma che carità, ci andiamo negli anni 80 davvero. Va bene ragazzi, dai, anch'io vi lascio, vi auguro buon proseguo a tutti. C'è Eugenio, Gianni, Natalino, Marco, Giulio, già salutato, Antonello, Massimiliano, tutti quelli che sono ascolto. Un saluto circolare a tutti, dai, chiudo e vado a cenare. Ciao ciao, vai Eugenio. Ok dai, mi approfitto per salutarvi anch'io che mi ho chiamato che è pronto a masticare, che per la prima volta ho portato riesco a mangiare una recente. Ci sentiamo ragazzi, alla prossima se coincide con gli orari. Ciao! E se non ci possiamo sentire, buona estate a tutti. Ciao! Ciao! Claudio, ciao anche a te, Eugenio, anche io faccio quello e ti vado giù a portare il cane dalla prova da cena. Ciao, ci sentiamo, buona serata a tutti, buona continuazione. Yeah.